vai, solamente scelte, sempre coerente, USE, Fontana, su YWMC, Europa, e micidiale, accordo micidiale, a tempo micidiale, Mario Carducci, specie micidiale, Europa, aio. Tutto va oltre ad ogni limite in questo sistema. False alleanze impossibili fuori da ogni schema. Da una parte c'è l'estrema gente come me che crema. Dall'altra nati del cazzo, pronti a vendere il proprio fondo a schiena. È una messa in scena qua nessuno ci si schiera. In molti pensano già di oltrepassare la frontiera. C'è chi ce l'ha fatta per scappare dalla galera. Chi ha messo su famiglia fuori ora vive serena. Per ogni amico che ora vive distante sa che se cade rialzarsi l'importante. Che in fondo la sua è una scelta come tante. Racconterà la sua storia ai nipoti da grande. C'è pure chi è andato fuori pensando di fare l'oro, ma ha trovato solo più merda pagando la peso d'oro. E la salita complicata non è stata colpa loro. Ora 50 anni con uno schifo di lavoro. Sono soltanto scelte che decidono il tuo domani. Costruisci il tuo castello seguendo i tuoi piani. Sono soltanto scelte, amici miei cari. Scelte che a volte sembrano niente, condizionano il domani. Pensi che ogni possibilità prova dal cielo e cerchi soluzioni che in realtà sono meno di zero. Per fare il guardiero vuoi affrontare il sentiero, ma sei nato sfigato e non per farlo davvero. È la realtà che mi prende male, che mi fa pensare a come le cose in futuro potrebbero ancora andare. Sono giorni che vivo, saltano nel vuoto. Sono anni che vivo per giocare col fuoco e sono soltanto sensazioni che percepisco. Se so che è una scelta sbagliata, io mi infierisco. Non c'è altra cosa che per il mondo preferisco che scrivere ciò che penso e metterle sopra un disco. Se la scelta è giusta, per me vale un 13. E anche se non svolto non smetto. Tu credici? Dono tutto se muoio, dillo pure ai medici. Ho scelto di morire il 17 anziché il 16. Sono soltanto scelte che decidono il tuo domani. Costruisci il tuo castello seguendo i tuoi piani. Sono soltanto scelte, amici miei cari. Scelte che a volte sembrano niente, condizionano il domani. Ci tocca farle pure quando siamo in bilico. Quando becchi quella giusta ti senti mitico. Muovi le pedine come il risico. Non basta essere belli e un po' di fisico. Quelle che ho preso c'hanno un peso fino al livello critico. Mi sono ripreso, sono soltanto scelte. E ciò che ho dato non è mai tornato indietro. E te lo aspetto a braccia aperte. Ho sentito che il tempo è ciclico. La gente cambia come cambia musica e parole. La notte è sempre la stessa, è il giorno che muore. Ti prende in giro, ti mette alla prova come il Signore. È un passo dopo l'altro, consumato le suole. Ho fatto scelte sbagliate perché sbagliando si impara se vuole. La prima regola che poi fa un uomo migliore. Che condizione il tuo domani, tocca avere dei piani per non sentire il dolore. Sono soltanto scelte che decidono il tuo domani. Costruisci il tuo castello seguendo i tuoi piani. Sono soltanto scelte, amici miei cari. Scelte che a volte sembrano